Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Un'ora da passare insieme. Stavolta non vi invito a partecipare, ma lo farò ampiamente domani, perché avremo molti temi da trattare che ci lascerà sul tappeto questo weekend. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Siamo tra gli ultimi due fuochi della stagione dei club, a metà strada tra la finale di Champions League che abbiamo visto ieri sera a Monaco di Baviera e di cui tra un istante parleremo, e ne parleremo poi, come detto, con calma domani, e la finale di Coppa Italia che andrà in scena all'Olimpico di Roma con la Juventus, reduce dalla settimana delle tante feste scudetto e delle rivendicazioni stellate, come ben sapete, e il Napoli che invece ha mille grilli per la testa, mille grilli di mercato per la testa, tra Lavezzi che è stato allontanato anche da Maradona nei giorni scorsi e Cavani che fa i capricci olimpici, l'avete sentito l'altro giorno, vado alle Olimpiadi perché così deve essere, altrimenti pianto un casino che neanche vi immaginate e poi vado lo stesso. Il Napoli ha detto sì, era nei patti, era negli accordi, però dietro queste dichiarazioni leggo alcune trappole di mercato, facciamo così. Partiamo però dalla Champions League. Dario Ricci ieri sera era all'Olympia Stadion di Monaco di Baviera e adesso ci racconta tutto. È il momento decisivo. Drogba! Drogba! Sempre lui, meravigliosamente lui, scrive la vera pagina della storia della Chelsea. Se andrà via, andrà da grande campione come è sempre stato, con il gol decisivo e con il rigore decisivo, la disperazione del Bayern che perde in casa la Coppa dei Campioni ai rigori come aveva perso la Roma in casa contro il Liverpool, la gioia della Chelsea, una vittoria contro tutto e contro tutti. Eh sì, Carlo, che emozioni ieri sera all'Olympia Stadium, anzi no, all'Allianz Arena di Monaco, questo stadio fantascientifico, così come galattica è stata questa finale, non nella qualità del gioco, ma almeno nelle emozioni. Allora, riviviamola insieme col nostro ospite che proprio sulle tribune dell'Allianz era a fianco a me. Benvenuto Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, ben ritrovato, amico di A Tempo di Sport. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora Andrea, grazie per essere nostro ospite, ti faccio sentire subito la voce, le dichiarazioni del dopo partita dell'altro grande protagonista insieme a Didier Drogba, man of the match, ovviamente Roberto Di Matteo, allenatore dell'anno direi, almeno in casa Chelsea ma soprattutto in Europa, sentiamolo e poi le commentiamo insieme. Andrea. Sono stati tre mesi molto intensi, è stato un viaggio incredibile che abbiamo iniziato con questo gruppo ed è finito con la vittoria questa sera, cioè è incredibile. Però va dato credito anche a André Villas-Boas, perché lui ha iniziato questo viaggio l'estate scorsa, mi ha portato in questa società e lui ha messo le fondazioni per questa vittoria. E allora, bel gesto anche quello di Matteo, forse non avrebbe potuto fare altrimenti, quello di riconoscere anche il lavoro fatto da Villas-Boas, ma c'è tanto di Matteo in questo successo, vero Andrea? Sì, soprattutto il fatto che con Di Matteo sono tornati i protagonisti, i veterani, che invece con Villas-Boas erano stati messi in secondo piano. Ricordiamo che nel punto più basso della stagione del Chelsea, cioè la sconfitta per 3-1 al San Paolo contro il Napoli in febbraio, nell'andata degli ottavi di Champions, i veterani, cioè proprio Lampard, Drogba e lo stesso Terry, non giocarono, a testimonianza del fatto che molto stava cambiando in quel Chelsea e che Villas-Boas stava cercando di portare dei cambiamenti che in realtà non era ancora il caso di portare, come è stato dimostrato dal seguito dall'avventura di Di Matteo, che invece ha rimesso al centro del progetto i veterani, ci ha costruito intorno una squadra che tatticamente e come mentalità era l'opposto di quella che voleva portare avanti Villas-Boas, cioè tutta arroccata in difesa per poi cercare il contropiede. Quindi Di Matteo è giusto che ringrazi Villas-Boas perché comunque ne era stato il vice, però non si può non sottolineare come il Chelsea di Di Matteo sia molto molto diverso da quello di Villas-Boas, che chiedeva un maggiore dispendio di energie. Questi invece sono dei veterani temprati da mille battaglie che tantissime energie non possono spendere in campo, devono invece amministrarsi, difendersi e andare in contropiede come hanno fatto benissimo ieri sera. È la vittoria di Drogba, ma anche quella di Cech e di Lampard, che sono state due colonne incredibili. Fantastico, insomma. Anche quell'Obi Mikel lì in mezzo, insomma, veramente esatto. Questo schema, questo modo di giocare di Di Matteo ha esaltato queste qualità e è riuscito a nascondere i difetti. Senti, ma questo non è il momento migliore per Di Matteo per andarsene dal Chelsea, al di là di quello che tutti dicono che lo manderanno via? No, c'è una questione che, di cui non si può non tener conto. È vero che non abbiamo mai visto squadre vittoriose in Champions League sfortunate, nel senso che per vincere è sempre necessario un aiuto della buona sorte, ma il Chelsea di Di Matteo in questi due mesi e mezzo scarsi è stata una squadra molto fortunata, soprattutto in Champions, non sto a dire ieri sera, ma anche le due semifinali col Barcellona, insomma. Beh, non capita spesso che Messi, e magari sì, più spesso che Robben, sbaglino due rigori così importanti. C'erano state circa 27 tiri in porta a 4 in due partite per il Barcellona, nello stesso ottavo di finale col Napoli. Nella gara di ritorno, i primi 20 minuti il Napoli poteva segnare tranquillamente, poi si infortunò Maggio, insomma è successo un po' di cose a quel Napoli e il Chelsea ne approfittò. Quindi Di Matteo è stato un generale bravissimo e fortunato, come è giusto che sia, però magari non è detto che il prossimo anno poi le cose debbano andare per forza sempre nello stesso modo. Io credo che Di Matteo faccia bene a rimanere, perché se lo merita, e perché un allenatore che vince FA Cup e Champions League in pochi mesi merita la riconferma. Al tempo stesso, secondo me, il sistema di rivitalizzare i veterani, di dar loro fiducia, di costruirli intorno a una squadra da battaglia, la prossima stagione potrebbe non essere un disegno felicissimo, perché comunque il Chelsea è una squadra che ha bisogno di essere in qualche modo cambiata e ringiovanita. Ecco, insomma, diciamo l'ideale sarebbe farsi mandar via, come probabilmente farà Abramovic. Ancora qualche secondo invece di rubo, Andrea, per guardare in casa Bayern. Come si esce fuori da questa tragedia calcistica? Ma i tedeschi ci hanno insegnato molto, soprattutto la cultura della sconfitta, devo dire. Hanno avuto spesso squadre che hanno perso finali, hanno sofferto delusioni incredibili, ma la stessa Germania nel 2006 come nazionale, ricorderete, persa la semifinale in casa, ma poi dopo ha giocato una finale di europea e l'ha persa, è arrivata alla semifinale in Sudafrica e ha perso anche quella, ma sono sempre lì, proprio sono dei diesel, provano, riprovano finché non riescono a ottenere la vittoria. Il Bayern secondo me è una squadra che avrebbe bisogno di qualche variazione di più nel gioco offensivo, che alla lunga diventa prevedibile, soprattutto almeno ad altissimi livelli. Ormai le squadre hanno imparato che bisogna chiudere le fasce da dove arrivano Robben e Ribéry, il Chelsea l'ha fatto benissimo e ha rischiato tutto sommato poco. È una squadra a cui manca qualcosa nelle grandi serate internazionali, forse anche un po' di fortuna. Due anni fa trovò un Inter che aveva nel destino la vittoria in quella Champions con Mourinho. Quest'anno forse il destino anche è stato avverso, perché c'era qualcosa che ci diceva che il Chelsea in qualche modo ce l'avrebbe fatta anche se giocava in trasferta. Certo. Però il Bayern è un grande progetto, una grande squadra, un grande club, continuerà su questa linea, anche se credo che debba un po' rivedere certi punti di vista sulle sue due stelle, Robben e Ribéry, che sono due uomini che difficilmente nelle grandi finali escono alla grande, tengono fede alla loro fama, insomma anche ieri sera abbiamo visto fallito abbastanza. Sì. Come detto, l'appuntamento con voi per parlare della finale di Coppa Italia, di Coppa Italia naturalmente, che non abbiamo ancora visto, ma quella di Champions League che abbiamo visto, che ora Dario Ricci vi ha raccontato, è per domani alle 14 con A Tempo di Sport. Intanto per il momento io saluto e ringrazio Enzo Bucchioni, direttore di QS, mio amico. Ciao Enzo. Ciao Carlo, ben ritrovato, grazie a voi naturalmente. Prima dicevo, la Juventus reduce dalla settimana delle tante feste scudetto e delle rivendicazioni stellate, più o meno attendibili e credibili, ma lasciamo stare, se no si innesca il solito tormentone. E il Napoli che invece ha molti grilli di mercato per la testa, tra Lavezzi, come dicevo, allontanato anche da Maradona, Cavani che fa i capricci, è un'estate che non sarà serenissima, io credo, sotto il Vesuvio. Sì, hai detto bene, l'hanno affrontata in maniera strana questa settimana pre-Coppa, che poi è sempre un traguardo importante, un obiettivo per tutte e due le squadre, credo, per santificare quasi una stagione per la Juventus e comunque centrare qualcosa per il Napoli, che altrimenti rimarrebbe a bocca asciutta. Invece ci troviamo di fronte a una tumultuosa settimana piena di problemi. La Juventus, fra l'altro, sottolinea anche questa vicenda Conte relativa al calcio scommesse, con pentiti che l'accusano, Carobbi in particolare, che sta diventando qualcosa di più di un torpentore, sicuramente una situazione molto fastidiosa da gestire finché non si arriverà alla verità. Sicuramente il calcio scommesse che è fra i piedi di tutti, anche qui speriamo davvero di capirci qualcosa, e poi il calciomercato che irrompe, il Napoli soprattutto, uno di questi due campioni, secondo me dovrà cederlo alla fine, presumibilmente Lavezzi, ma anche Cavani scalpita molto, quindi vediamo chi riuscirà a trovare la mente più lucida e la concentrazione più efficace per portare a casa questa partita. Sì, possono aver così distratto la Juventus le tante feste scudetto? So che è qualcosa di banale, però insomma ogni giorno ce n'era una, a casa di Agnelli, alla Fiera del Libro, e di qua e di là. Dopo aver vinto lo scudetto, magari la Juventus, nonostante Conte avrà cercato di mantenere altissima attenzione, concentrazione, tutte queste cose qui, però un po' di reflusso di adrenalina magari l'ha avuto. Ma credo di sì, anche perché questo gruppo non è abituato a vincere, e quindi ai trionfi e tutto quello che consegue, che tu hai elencato adesso. Questo è il grande interrogativo. Se fosse ancora con la Juve là, no, che vinceva sempre, oppure queste squadre che storicamente sono abituate, questi gruppi, a fare vittorie, poi trionfi, poi festeggiamenti, poi di nuovo vittorie, saremmo, i tifosi juventini dovrebbero essere più tranquilli. Qui c'è l'incognita della gestione del successo, che spesso è più difficile gestire l'insuccesso, non è una banalità neanche questa, e vediamo, il campo ce lo dirà, perché sono curioso anch'io di vedere questa reazione, anche se devo dire la Juventus ha fatto questa stagione straordinaria lavorando molto sulla testa più che sui piedi, e questa è stata la sua grande qualità, la qualità del suo allenatore, che ha saputo imprimere alla squadra, al gruppo, la sua volontà. Credo che possa anche recuperare nel giro di un paio di giorni di ritiro e di concentrazione quella determinazione che ha avuto per tutta la stagione. Enzo, adesso voglio divertirmi un po' ripescando un paio di voci bellissime, secondo me, della settimana, a cominciare da questa, da quella dell'allenatore dell'Inter, che io vedrei bene anche a Zelig, oltre che su una panchina. Derby, sotto passaggio di San Siro, io saluto tutti, poi vabbè, Ernesta lo conoscevo, ti ricordi? Così, più che conoscevo e ti ricordi. E da lontano mi sento Strama, mi giro, Cassano. Oh, Strama, bene, oh. Accento, bene, sì, non so. Oh, bene, dico sì, pensa, è una situazione un po' difficile. Ma che cazzo ti frega? Ma qua bene, fa Ma guarda che nel calcio, se fai bene, parlano subito, i giocatori parlano subito. Io abbiamo due piani sopra Wes. Wes mi ha detto, questo qua è un fenomeno. Questo, dico, vabbè, forse Wes è un po' esagerato. Oh, Wes, guarda che non dà retta manco a padre della madre. Vabbè, se è bravo, quanto è simpatico, è un grande allenatore, Stramaccioni. Scusa, ma una curiosità, ma era lui o era l'imitatore già? No, era lui. Era l'altro giorno ha parlato, ha fatto vero, questo intervento al Corriere dello Sport, ma sì. Meraviglioso, eh. Strama! Lì era in famiglia, era a Roma, quindi il suo ambiente c'è molto. Se no, io pensavo, non avendolo mai sentito, pensavo davvero fosse un imitatore. No, giuro che è lui. Quindi va bene, ingaggiamolo per Zelig, hai ragione. In attesa di sapere, ma ci credi davvero che sarà per la prossima stagione? Ma no, guarda, io allora, permetto di farti una domanda. Insomma, guarda, io sull'Inter ormai ho ceduto le armi, nel senso che anche sulla vicenda Stramaccioni ho avuto l'impressione che la sua conferma fosse più o meno intensa a seconda del risultato della domenica. Sì, questa è la sensazione che ci ha accompagnato nell'ultimo mese e mezzo, ma comunque facciamogli auguri, in bocca al lupo, perché è un ragazzo giovane così, siamo capaci anche noi, potremmo dire, no? Di imporre a certi livelli un briciolo di gioventù, perché se ci guardiamo attorno siamo tutti dei dinosauri, e quindi applaudiamolo e accompagniamolo con calore. Poi gli eventi in casa Inter, come dicevi tu, possono cambiare da un momento all'altro, ma questo fa parte della storia, è successo a personaggi ben più collaudati, ben più esperti, ben più vincenti. Mi viene in mente Benitez, che fine ha fatto? Sì. Resista, si tenga duro la sua panchina. Beh, sei... può. Ti ricordi solo un anno fa, Leonardo che va al Paris Saint Germain, e poi la ricerca in giro per il mondo da Bielsa, il giro delle 90 chiese, e poi... E poi Gasperini, non gradito a Moratti, licenziato in conferenza stampa di presentazione praticamente, e poi le altre vicende le conosciamo bene. Beh, sì, mettere, ma poi ritornano, perché mi viene in mente Oxon è stato strepitoso il passaggio all'Inter, ora è città dell'Inghilterra, cioè sembra... A proposito di Oxon, non potevi fare nome più azzeccato, perché è proprio quello che volevo farti sentire. Roy Oxon. And with Alex Oxlade-Chamberlain, I think he's a very, very exciting player. He's given one or two performances which have made quite an impression upon me, not least of all when Arsenal played Milan at the Emirates Stadium, and I was there live and saw how well he dealt with Pirlo and Ambrosini in the central midfield. Allora, conferenza stampa di Oxon per la presentazione di questa molto chiacchierata lista dei 23 giocatori della nazionale britannica. Ho convocato Chamberlain perché nell'ultimo match di Champions League dell'Arsenal all'Emirates l'ho visto molto bene contro Pirlo e Ambrosini. Ambrosini era in tribuna e Pirlo sappiamo bene dov'è. Beh, questo è Oxon, il tipico Oxon. Io ricordo una mattinata strepitosa a Coverciano per la panchina d'oro, quando lui allenava l'Inter, sì. Naturalmente è stata tutta una gag così, sbagliava i giocatori, sbagliava i nomi dei suoi colleghi allenatori, sembrava uscito un film di Stanley Olio. Questo è Oxon, complimenti anche a lui, perché se dopo essere passato attraverso grandi squadre ora è addirittura CT dell'Inghilterra e sbaglia il nome di giocatore, non si ricorda le partite, evidentemente qualche altra qualità ce l'ha. Ma mi fa venire in mente un altro grandissimo allenatore, per il quale non faccio il nome, che disse prima di una partita importante in una squadra importante che allenava a un giocatore: tu marca Chili e tu marca Gonzales, e Chili Gonzales era un giocatore solo, quindi è bellissima questa storia, e che insomma, il calcio è pieno di questi personaggi. Senti, invece dimmi, per chiudere, dimmi qualcosa sulla Fiorentina. Che estate vivrà la Viola? Spero che non sia tormentata, temo che sarà tormentata, perché sono molte cose da fare, c'è da ricostruire, da rimettere in piedi un qualcosa che è crollato, e non è mai facile in queste situazioni, soprattutto una piazza che si aspetta grandi cose, una piazza in ebollizione. Il no di Oriali è stata secondo me una brutta botta, perché serviva un uomo così esperto, un uomo di calcio, sì. Pacato, sapiente in tutto. La scelta dell'allenatore sarà altrettanto tormentata, perché la piazza si è già divisa su alcuni nomi che sono stati sondati. Speriamo che le decisioni arrivano in fretta, poi se saranno quelle giuste lo vedremo in fretta, perché stare in questo periodo a lungo in stand-by secondo me peggiora la situazione. Certamente. Direttore, grazie. Grazie a voi, piacere. È sempre un piacere. Buon pomeriggio. Ciao, grazie, Carlo. Ciao, grazie. A tutti. Grazie Enzo Bucchioni. Ho voluto far sentire un po' di musica al mio amico Paolo Bargigia da Mediaset. Ciao Paolo. Ciao Carlo, musica napoletana, Cuore Ingrato. E chi è Cuore Ingrato? L'Avezio Cavani. Entriamo subito così nella... Ma no, guarda, non lo so, se proprio devo sbilanciarmi, devo scegliere. Sì. Chi lo sa, forse potenzialmente potrebbe diventarlo più Cavani, nel senso che sì, l'Avessi ha questa clausola rescissoria, quindi lui non aveva messo la pistola a nessuno per farsela inserire, anche se poi De Laurentiis si era pentito. Invece Cavani però sarebbe un Cuore Ingrato secondo me giustificabilissimo, perché è un giocatore del suo livello, con le richieste che ha e con le prospettive che ha in Italia con la Juve e all'estero con gli altri top club come Chelsea, City, eccetera, insomma è anche velleitario pensare che lui finisca la carriera o quasi al Napoli, no? Sì. Per un giocatore di 25 anni. Sì, sì, del, resto, del resto Carlo ha dato tutto al Napoli Cavani, di tutto e di più, e la filosofia di De Laurentiis è una filosofia secondo me legittima, che però non gli può consentire di tenere, ma tra l'altro è anche un bene per il rinnovamento, no, a vita giocatori del genere, perché lui ha un salary cap, gestisce, vuole gestire direttamente come club i diritti di immagine, quindi tu figurati un Cavani che adesso arriva a 2 milioni e mezzo con i premi all'anno, sì, se sì, di fronte a 6, 7, 8 che gli possono offrire in giro e i diritti di immagine. No, certo Paolo, però mentre la, così, la carriera di Lavezzi al Napoli, l'ha detto anche Maradona correttamente, presidente in pectore del Napoli, è potenzialmente finita, no? Perché... perché insomma è arrivata ad una conclusione, credo che la separazione vada bene ad entrambi, che non sia colpa di Lavezzi come magari i tifosi del Napoli pensano, credo che sia qualcosa che va bene ad entrambi. Per Cavani magari no, quell'uscita sull'Olimpiade con quei toni, se non mi fanno andare faccio un casino pazzesco e poi ci vado lo stesso, io dietro quelle dichiarazioni ho letto una storia di mercato che verrà. No, ma quello sì, perché guarda, io nei miei servizi di mercato su Mediaset è da una settimana che racconto, al di là dei viaggi della Juve dei giorni scorsi in giro per l'Europa e dei tanti obiettivi della Juve in attacco tra Higuain, Suarez, eccetera, però io avevo saputo e ne sto raccontando in questi giorni di una chiamata proprio personalmente di Antonio Conte a Claudio Anelucci, che è uno dei due agenti di Cavani, con Conte che gli aveva anche detto: se io riesco a prendere Cavani con lui e Vucinic alla Juve vinco per altri 10 anni. Sono d'accordo, io sono d'accordo, la vedo anch'io così, sai. Tu poi tieni presente una cosa: Cavani è una persona, guarda, e credo di parlartene a ragion veduta, perché conosco, se non bene lui, conosco bene insomma chi lo gestisce, chi gli sta intorno. È una persona, è un professionista pazzesco, però è molto particolare, cioè anche molto suscettibile, non gli piace essere toccato su certi argomenti. Lui l'anno scorso ha sofferto molto le tirate di De Laurentiis sui suoi impegni in nazionale, perché ai sudamericani, e mi spiegavano, in particolare agli uruguayani, non gli devi toccare la nazionale. E l'anno scorso De Laurentiis l'ha messo un po' in mezzo dicendogli che doveva risparmiarsi, che non doveva andare, eccetera. E questa cosa gli ha dato molto fastidio. Sì. Come gli stanno dando fastidio alcune cose che si sono sviluppate nelle ultime settimane tra lui o chi lo rappresenta ed il club. E un po' Cavani l'ha giurata, cioè è molto incazzato, dà sempre il massimo, però insomma qualcosa io mi aspetto. Sì. Non sarà facile scardinare la resistenza di De Laurentiis, perché vedi, tu dici Lavezzi ha chiuso il suo ciclo, ma la differenza è semplicemente questa, che De Laurentiis è convinto di avere in casa i sostituti pronti di Lavezzi, vale a dire Vargas, che non abbiamo ancora visto all'opera, e poi aiutami tu, ho un'amnesia che torna dal prestito, dal Pescara, bravo, Insigne, ecco. Quindi De Laurentiis da quel lato lì è relativamente tranquillo, un po' meno Mazzarri, infatti anche lì secondo me ci sarà qualche capitolo interessante. Però è chiaro che il sostituto di Cavani non ce l'hai e ti metterebbe in grosse difficoltà. Dico solo di stare attenti alle volontà di Cavani. Sì, certo. Senti Paolo, io voglio farti sentire qualche voce della settimana particolarmente divertente, a cominciare da questa. Uno che sicuramente ci ha messo tanto del suo, perché quando un presidente ti dà fiducia, tu fai molto bene, perché l'anno scorso è indubbio che vinci la Coppa Italia, arrivi secondo, sbagli poche partite, e abbandonare la nave a 3 giorni non è da buon capitano. C'è però chi l'abbandona prima di far scendere tutti i passeggeri, quindi lui penso che abbia fatto molto, una cosa abbastanza simile. Beh, molto forte, però non posso paragonare quello che è successo a Schettino con quello, perché uno è calcio e uno è vita, e assolutamente sarebbe un attimino spregevole. Uno non è che può imparare a fare un mestiere in 2 giorni, quello che ci vuole culo, qualcuno all'Inter è passato per culo, vedi l'anno scorso. Materazzi, Leonardo come Schettino, sì. Ma Carlo, Materazzi su queste cose insomma è un idealista, no? Se sì. Vuoi, è un po' no, legato a valori, a bandiere, a riti, a gestualità, eccetera. Quindi la sua lettura su Leonardo che se n'è andato, da quel punto di vista lì, non fa una piega, come non fa una piega la considerazione che lui fa, no? Parlando di fortune. In effetti Leonardo, insomma, sai che nella vita ci sono le persone più o meno fortunate, no? Leonardo non è un allenatore, eppure ha allenato in Milan e l'Inter. Non è un dirigente, però ha fatto il dirigente al Milan e all'Inter e al Paris Saint Germain. Quantomeno che una persona fortunata, sono d'accordo con Materazzi. Sul fatto che Materazzi sia un po' avvelenato con Leonardo, perché praticamente gli ha fatto chiudere la carriera di calciatore, anche se in verità c'è da dire che Materazzi ha ancora un contratto con l'Inter, sta percependo uno stipendio, sì, anche sì, se è fuori. Sì. Sì. Quindi insomma queste secondo me sono le chiavi di lettura. Beh, poi se adesso da dirigente del Paris Saint Germain non torna e gli frega Lavezzi, sai che festa, eh? Sì però sai, lì è nell'esercizio delle sue funzioni, ma è anche facile se dovesse farlo, semplicemente perché ha alle spalle una potenza economica che gli consentirebbe di pagare a De Laurentiis la clausola di Lavezzi in contanti, mentre Morazzi, dopo averne dilapidati per 15 anni e più, chiaramente vorrebbe mettere in mezzo giocatori per Lavezzi, e quindi è un po' meno appetibile. È certamente meno appetibile. Un'ultima voce, un ultimo commento da parte tua, questa. Ho avuto i primi contatti a maggio dell'anno passato, ci ho voluto pensare bene, ho cominciato a vedere la squadra. Il presidente Liu mi ha raccontato dell'entusiasmo, della grande ambizione che aveva la società nella persona del presidente Xu Jianyan. Quando andiamo in Cina anche noi, Paolo? 30 milioni al professor Lippi. Carlo, vedi, nella vita c'è sempre qualcuno dal punto di vista economico e non, adesso noi parliamo di business, quindi economico, che è baciato dalla fortuna, no? E c'è sempre qualche ricco, che poi noi definiamo ricco scemo, ma magari tanto scemo non è, che ricopre di soldi qualcuno per la figurina che ha rappresentato, no? Cioè tu dimmi se c'è una logica calcistica in tutto questo, no? Un signore come Lippi, fermo da anni, che non so quanto se si è più aggiornato in questi anni, non ci risulta, no? Come cronisti che Lippi andasse, come molti suoi colleghi, a vedere allenamenti delle squadre, andasse in formati. Andava tanto in barca, coltivava hobby, faceva conferenze, perché dopo il mondiale è stato strapagato anche per fare conferenze, convention, che ti chiamano dopo 6 anni e ti danno tutti quei soldi, 10 milioni di euro netti a stagione. No? Ma per usare le parole di Materazzi, è stata l'ultima grande botta di culo di Marcellone. Ma è incredibile, cioè è chiaro che è stato bravo a creartela, ad aspettare, a rifiutare delle cose che magari gli davano meno disponibilità e meno risorse, però questa con una logica calcistica non c'entra niente. No, hanno mandato via un allenatore capace, bravo, che vinceva e conosceva la realtà cinese, per prendere un marziano, no? Che da 6 anni stava facendo tutt'altro e riempirlo di soldi. Dico chapeau, buon per lui, però col calcio vero c'ha poco a che fare, ti pare? Come no. Paolo, ti ringrazio, a presto. Grazie a te, alla prossima. Grazie a Paolo, ciao. Bargigia, è sempre un piacere. Dunque, la finale di Champions League l'abbiamo vista ieri sera, la finale di Coppa Italia la vedremo questa sera e poi domani, come detto, parliamo di tutte e due, soprattutto con gli ascoltatori che in questo weekend non hanno avuto spazio. Ovviamente torneremo su tutti questi temi di mercato che ho l'impressione ci terranno compagnia in maniera quasi ossessiva fino al via dell'europeo. E adesso però è il momento del Giro d'Italia, perché sono finalmente giorni divertenti alla Corsa Rosa dopo un trasferimento lunghissimo che è durato praticamente due settimane di noia, perché così è stato, e adesso finalmente le montagne, finalmente la battaglia, finalmente un'ultima settimana che vale la pena vivere insieme e raccontarvela. Oggi lo farà Dario Ricci. Io vi saluto qui nel cedere appunto la palla a Dario Ricci per la tappa di oggi. L'appuntamento con A Tempo di Sport e con il sottoscritto è per domani alle 14. Giro. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. E allora, grazie Carlo per l'assist che mi hai lanciato proprio nel momento in cui Rabottini, dopo una splendida fuga, ha vinto a Piani Resinelli, una delle tappe più attese. Adesso ci racconterà tutto dal traguardo di Piani Resinelli il nostro Pier Augusto Staggi. Intanto però abbiamo, come d'abitudine, il nostro quiz, perché c'è il polsino di Ivan Basso da vincere, ve lo ricordo. Stavolta però mandateci tutto via mail a tempodisport@radio24.it. Nome, cognome e numero di telefono, non gli abituali sms, ma la mail a tempo di sport @radio24.it per rispondere a questa domanda: chi è stato il corridore che più volte è salito sul podio finale del Giro d'Italia? Il primo, il più rapido tra voi all'ascolto, vincerà il polsino di Ivan Basso. E come è andato Basso, e soprattutto come è andata tutta la tappa del Giro d'Italia, lo chiediamo subito in diretta a Pier Augusto Staggi da Piani Resinelli. Allora, Pier Augusto, grande impresa di Rabottini, raccontaci anche cosa hanno fatto i big. Intanto i big stanno ancora arrivando, è arrivato adesso Domenico Pozzovivo, che paga 2 minuti, e devono ancora arrivare a un bel po' di corridori. Oggi finalmente, possiamo dirlo, è esploso il Giro d'Italia, una bellissima tappa, finalmente ci voleva tanta pioggia, tanto freddo, tantissima gente sulla Piana dei Resinelli, che hanno sfidato anche loro, gli sportivi, una giornata non certamente facile a livello meteorologico. Vittoria, come hai detto tu, di un ragazzo di 24 anni, farà 25 anni ad agosto, Matteo Rabottini, che è scappato al chilometro 18, in pratica si è fatto tutta la tappa in fuga, ha resistito proprio fino nel finale, quando è scattato Joaquin Rodriguez a 500 metri dal traguardo, è andato a riprenderlo. Rabottini è stato molto bravo a rifiatare, a mettersi a ruota dello spagnolo e non cedergli il passo, e poi ha tutte le energie residue le ha utilizzate per vincere la volata proprio davanti a Joaquin Rodriguez. Si sono difesi molto bene Scarponi e Ivan Basso, che hanno perso sostanzialmente 25 secondi rispetto a Rodriguez e a Rabottini. Eisenbahn invece paga 39 secondi. Cunego è stato uno dei grandi protagonisti di questa tappa. Era molto atteso e si è visto, Ed ha fatto un lavoro assolutamente importante nella logica di squadra della Lampre ISD di Michele Scarponi. È stato veramente anche mal da rosa virtuale per molto tempo, e poi ha pagato logicamente nel finale, quando poi Scarponi è rinvenuto, diciamo, nelle posizioni di testa. È stata una gara molto selettiva e devo dire anche molto spettacolare. Diciamo, applausi a scena aperta per questo ragazzo molto giovane, al secondo anno da professionista, e vince la sua prima grande tappa al Giro d'Italia, la sua seconda vittoria in carriera, quindi aveva vinto in precedenza un anno fa una tappa del Giro di Turchia. Diciamo, oggi ottiene veramente la vittoria che lo consacra come uno dei migliori giovani del vivaio italiano. Bisogna dire, Pier Augusto, come sottolineavi, che è stato molto bravo, perché visto a 400 metri dall'arrivo ho pensato che a quel punto forse di energie non ce n'aveva neanche più una stilla, invece ha avuto anche la lucidità per rimpostare questo sprint e poi vincerlo, tra l'altro subito dopo il traguardo, travolto dall'entusiasmo della folla, se lo sono abbracciati e cappottato con tutta la bicicletta, insomma. La prossima volta a vincere ci pensa due volte. Dario, tra l'altro ieri Matteo Rabottini è stato, diciamo, protagonista involontario di un furto di bicicletta. Ieri ha forato la macchina, l'ammiraglia della Farnese Vini si è fermata, l'ammiraglia di Luca Scinto, il meccanico è sceso prontamente, aveva rotto il cambio Matteo Rabottini, gli ha dato la bicicletta sostitutiva e si è dimenticato al ciglio della strada la bicicletta. Se ne sono accorti dopo 200 metri, sono tornati indietro al volo a cercare la bicicletta, dei tifosi l'hanno fatta sparare. apparire. In realtà in tarda serata, ieri sera intorno alle 23:30, un tifoso valtostano ha riportato la bicicletta nell'albergo della Farnese Vini. Quindi tutto bene ciò che finisce bene. Ieri sera sono andati tutti a letto felici, addirittura Rabottini ritrova la bicicletta e oggi trova la vittoria, la sua prima vittoria al Giro d'Italia. Ribadisco, la vittoria più importante della sua giovane carriera, perché il professionista solo da 2 stagioni, e ha ottenuto oggi la sua seconda vittoria in carriera. Ha fatto una grandissima tappa, perché la tappa di oggi era nettamente più dura di quella di ieri, dove c'erano 2 salite, sì, che andavano molto molto in alto, ma erano molto lunghe, molto pedalabili, da rapporto, difficile fare la differenza. Oggi invece una tappa molto nervosa, molto più da scalatori, con delle discese estremamente tecniche e pericolose, tant'è vero che Basso ha sofferto molto in discesa, però è stata bravissima la Lipica, Scognoli e il solito Silvestre Smith e Eros Capecchi, che oggi ha vissuto una giornata molto più buona rispetto a quella di ieri, e la Liquiga si è riuscita a pilotare molto molto bene Ivan Basso, che alla fine ha controllato la situazione e ha portato a casa un risultato oggi più che lusinghiero. Diciamo le nostre 2 punti italiani che devono lottare contro la legione straniera in questo Giro d'Italia, che sono Basso e Scarponi, sono lì. Diciamo che domani c'è il giorno di riposo e poi arrivano le montagne, quelle definitive, quelle che daranno il volto definitivo a questo Giro d'Italia. Arriverà il Giao, arriverà Pampeago, arriverà il Mortirolo, arriverà soprattutto lui, lo Stelvio, a dire chi sarà il più forte in questo Giro d'Italia. Speriamo che sia un corridore italiano. Certo, intanto Joachim Rodriguez si è ripreso la maglia, però. Sì, infatti con lo scatto che ha fatto, tanto è vero, stavo dicendo che Rabottini è stato molto bravo a non farsi prendere dalla foga, a non demoralizzarsi, perché è stato ripreso proprio veramente 450 metri dal traguardo, ha rifiatato, ha tenuto la ruota fin sotto il traguardo. A quel punto io penso che Joachim Rodriguez giustamente ha evitato di spingere e ha concesso al ragazzo, che se l'è meritato a tutti gli effetti, non gli ha fatto uno sgarbo, certo. E diciamolo, l'ha lasciato vincere, ma non ha rubato nulla, perché veramente si è fatto una giornata in fuga. È andato fortissimo, credetemi, è andato assolutamente molto, eppure molto forte. Ha avuto anche una scivolata, e poi comunque anche dal punto di vista di Rodriguez farsi un amico in più nel gruppo non fa certo male. Allora, intanto grazie a Pier Augusto Staggi, che lo ritroveremo fra poco nelle nostre varie edizioni di GR Sport. Io mi fermo qui, grazie anche a Carlo Genta che mi ha passato più volte la palla oggi. Ci ritroviamo però, oltre che nel GR24, anche alle 20:30, perché non manca anche nella nostra domenica di sport l'abituale appuntamento con Palla Spicchi. Buona serata da Dario Ricci.